Nelle lettere, tanto scritte come ricevute, spesso vi sono riferimenti a cose molto personali. Per questo non stupisce che l'Apostolo Paolo, scrivendo l'ultima missiva al proprio figlio spirituale, Timoteo, abbia fatto riferimento alla parentela di lui. Nulla di particolare sul momento, ma ad un esame più approfondito si scoprono delle verità molto interessanti che vale la pena prendere in esame. L'Apostolo Paolo inizia così la sua lettera. Paolo, apostolo di Gesù Cristo per volontà di Dio, secondo la promessa della vita che è in Cristo Gesù, a Timoteo, mio caro figlio, grazia, misericordia e pace da Dio il Padre e da Cristo Gesù il nostro Signore. Rendo grazie a Dio, che servo come già fecero i miei antenati con pura coscienza, poiché non cesso mai di ricordarmi di te, nelle mie preghiere giorno e notte. Ripensando alle tue lacrime, desidero vivamente di vederti per essere ripieno di gioia, mentre ricordo la fede non finta che è in te, e che abitò prima in Loide tua nonna, ed in Eunice tua madre, e sono persuaso che abita anche in te. 2 Timoteo 1:5. Paolo ha ricordato a Timoteo la sua parentela, non per delle ragioni semplicemente cronologiche, ma perché la fede di Timoteo era la stessa di sua madre e di sua nonna. Se pensiamo un attimo a questa catena di fede, restiamo semplicemente stupiti. Facciamo alcuni calcoli approssimativi. Ipotizziamo che Timoteo al momento di ricevere la lettera avesse circa 20 anni, e ancora l'ipotesi che la madre lo avesse partorito circa alla medesima età. A qualcuno potrà sembrare troppo giovane per avere un figlio. Ma non dimentichiamo che in quel periodo le ragazze andavano a marito anche prima dei 16 anni. Sempre seguendo questa ipotesi non assurda, mettiamo che anche la nonna Loide avesse partorito sua figlia Eunice a 20 anni. Così possiamo calcolare che, al momento nel quale Timoteo riceve la lettera, erano passati circa 60 anni dalla nascita della nonna Loide. E poiché la lettera di Paolo è stata scritta circa 67 anni dopo Cristo, possiamo dire che la nonna Loide sia nata circa l'anno 7 dell'era volgare. A cosa servono questi calcoli? Non certamente per pura curiosità, poiché ci sarebbe ben altro da investigare, ma perché la data della nascita della nonna di Timoteo ci può portare a capire meglio come, a volte, l'Evangelo arrivi nei cuori degli uomini nonostante le vicissitudini della vita. Se nonna Loide è nata circa 7 anni dopo la nascita di Cristo, significa che essa era contemporanea di Gesù e come tale certamente lo aveva sentito nominare, dato che gli evangelisti mettono in risalto il fatto che fama di Gesù si spargeva nella Galilea e nelle regioni vicine. MR 1:28, LC 4:14. Inoltre, se la mamma di Timoteo era una giudea credente, e così pure la nonna, non è inverosimile che Loide abbia visto personalmente Gesù e lo abbia sentito parlare, specialmente in occasione delle feste giudaiche. Il fatto poi che Timoteo avesse un padre greco, espressione questa che porta gli studiosi a pensare che non fosse un cristiano, fa pensare che Eunice abbia contratto un matrimonio non secondo il volere dei genitori. Infatti, una coppia ebrea credente nel suo Dio, di norma, non avrebbe mai permesso a una figlia di sposare un non ebreo. Perciò si può dedurre che Eunice abbia disubbidito ai suoi genitori contraendo un matrimonio con un pagano. Nulla di anormale, perché anche oggi molti giovani che hanno consacrato la loro vita a Cristo, in seguito, contraggono un matrimonio con chi non è nato di nuovo, che la Bibbia definisce figlio di Satana, avviando in questo modo un rapporto matrimoniale che per una legge spirituale non può essere armonioso. Anzi, dopo un breve periodo, nei quali i sensi e i sentimenti prevalgono spesso, il contrasto spirituale si evidenzia con una convivenza difficile tra mille difficoltà. Forse è stato così anche per la mamma di Timoteo, la quale, constatando di persona l'errore di un tale matrimonio, avrà ricordato le parole della madre Loide. Evidentemente si sarà pentita, avrà riconosciuto i suoi errori e, avendo riposto fede in Cristo, l'ha poi trasmessa a Timoteo. Non è facile per un giovane abbandonare i falsi piaceri che il mondo offre, come non è facile rinunciare alla propria volontà del sottometterla volontariamente a Cristo. ma è anche probabile che Timoteo, vedendo gli errori della madre, sia stato maggiormente stimolato ad accettare il messaggio di Cristo. Questo aspetto può incoraggiare tutti quei genitori che hanno avuto un passato disastroso. Essi possono affermare in prima persona come la vita senza Cristo sia un vero inferno. Questo è quanto Paolo voleva comunicare a Timoteo. Ti ricordo che la fede che ora possiedi procede non da persone sconosciute o esaltate, ma da tua madre Eunice, una vera credente. E come se ciò non bastasse, la stessa fede apparteneva pure in tua nonna Loide, la quale è stata una delle prime donne a porre fede direttamente in Cristo, per cui la tua è una fede preziosa più dell'oro e di qualsiasi altro bene terreno. La vita è veramente misteriosa. Noi esseri umani abbiamo sempre un gran bisogno di vedere i risultati del nostro operato, soprattutto quando siamo dei figli di Dio. Forse perché coloro che appartengono a Cristo trovano sempre così tanta opposizione e contrarietà da sentire il bisogno di essere consolati e appagati anche dal vedere dei risultati positivi di ciò che fanno. Ma le vie di Dio non sono le nostre. E così succede che i cristiani fedeli e consacrati lavorano per l'opera di Dio, vedendo pochissimi risultati, e solo dopo la loro morte, come anche dopo secoli, il seme della parola di Dio porta i suoi risultati. Nonna Loide, nel porre fede in Cristo, non avrebbe mai pensato che la sua testimonianza sarebbe stata ricevuta in seguito da Timoteo, un giovane che avrebbe poi seguito Paolo nei suoi viaggi. Nessuno di noi sa cosa possa portare una semplice testimonianza di fede in Cristo. Nel parlare del Vangelo disse a un incredulo che era un morto che camminava. Dopo più di 20 anni nell'incontrarmi per caso mi disse di non aver mai dimenticato le mie parole. Ma si sbagliava. Non erano le mie parole, ma quelle pronunziate per mia bocca dallo Spirito Santo, il quale le aveva pure impresse nella sua mente. Nessuno conosce la potenza dell'opera dello Spirito di Dio. Le parole che Paolo e gli altri apostoli hanno scritto, dopo 2000 anni, sono ancora lette, credute e vissute da miliardi e miliardi di persone. Ciò che hanno detto 12 uomini per lo Spirito di Dio hanno sconvolto il mondo intero dal punto di vista culturale e sociale. Cosa può fare Dio con poco? Gesù ha moltiplicato pochi pani e pochi pesci e, se questo ha fatto con della materia, molto più è in grado di fare nel campo spirituale. L'obiettivo dei credenti non dovrebbe essere tanto di fare grandi cose per Dio, ma di essere sottomessi alla persona dello Spirito Santo. È vero che Dio può fare grandi cose e noi dobbiamo ricercarle, ma non si devono ricercare perché sono grandi, ma perché fanno parte del piano di Dio. Non tutti possiamo essere dei Mosè o degli Elia, ma tutti possiamo adempiere il piano di Dio. Questa rivelazione donata da Dio gratifica ogni credente, il quale sarà accolto alla presenza di Dio con queste parole: «Bene, buono e fedele servo, tu sei stato fedele in poca cosa, io ti costituirò sopra molte cose, entra nella gioia del tuo Signore». MT 25.21. Poca cosa. Nonna Loide non ha certamente fatto grandi cose, molto probabilmente i suoi contemporanei non avranno potuto notare nella sua vita cose eccezionali, ma la sua semplice testimonianza ancora oggi riecheggia in tutto l'universo. Il fatto che Timoteo avesse posto la fede sulla persona giusta, e cioè Gesù Cristo, non rendeva appagato Paolo, e neppure Timoteo doveva esserlo, perché credere in Cristo è solo l'inizio di una nuova vita. È la sfida per una esistenza ricca di buone esperienze. Proprio per questo motivo, l'apostolo Paolo nella sua lettera affettuosa continua col dire: «Tu però persevera nelle cose che hai imparato e nelle quali sei stato confermato, sapendo da chi le hai imparate, e che sin da bambino hai conosciuto le sacre scritture, le quali ti possono rendere savio a salvezza, per mezzo della fede che è in Cristo Gesù». 2 Timoteo 3.1-4.15. Nell'incoraggiare Timoteo a mettere in pratica ciò che ha creduto, Paolo ancora una volta si rifà alla fede della nonna Loide e della mamma Eunice, dicendo: «Tu persevera nelle cose che hai imparato, sapendo da chi le hai imparate, faceva riferimento a ciò che ha udito sia dalla madre che dalla nonna. È molto importante questo aspetto, perché molte persone si lasciano sedurre da religioni e filosofie estranee all'insegnamento ricevuto nella propria famiglia. Una cosa è credere a qualcuno quando lo vedi ogni giorno, ne conosci i difetti e i pregi. Ne vedi il risultato della fede, quando questo è umano e positivo. Altra cosa è credere a persone che parlano bene, ma non potendo verificare la validità dei loro discorsi. Una volta che si è accertata la validità della fonte delle notizie, il passo seguente è una vita completamente consacrata alla causa, che si è sposata, trovando di conseguenza anche la conferma di ciò che si crede. Infatti, per forza di cose, quando si decide di vivere una causa, all'inizio si è obbligati a prendere ogni cosa per vera, perché si è impossibilitati di conoscere ogni cosa, ma in seguito con l'esperienza ci saranno comportamenti, punti di vista, aspetti della vita che dovranno essere personalizzati, mentre altri aspetti da non doversi ritenere validi. Quando ero fanciullo, in materia di fede, prendevo per oro colato tutto ciò che mi veniva detto. Ma ora, dopo più di 40 anni di vita cristiana, sono in grado di setacciare discorsi e ordini, per cui ciò che può essere valido per altri può non esserlo per me. Dobbiamo ricordare che è molto pericoloso volere avere la fede di un altro, perché la fede viene distribuita a ciascuno come Dio vuole, Romani 12.3, ma non è pericoloso esaminare la testimonianza di fede dei propri genitori, soprattutto delle proprie nonne, perché alla loro età difficilmente ci sono esaltazioni spirituali. Le nonne possono cadere nel bigottismo, è vero, ma se la loro esortazione è credere alla persona di Gesù, allora a occhi chiusi conviene ubbidire e dar loro un bacio di riconoscenza. Un bacio che ha un valore eterno. Marzo 2009 03:15. Ellero.